Voci di piccola impresa, idee anticrisi, di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi, puntata speciale dedicata a social to business, appuntamento per le imprese, gli imprenditori, gli start-up, i finanziatori, i ricercatori, i professionisti e le istituzioni interessate a sviluppare collaborazione e partnership, che è organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda con il supporto dei giovani imprenditori di Alto Milanese, Bergamo, Monza, Brianza e Pavia e con la collaborazione di Welling, Regione Lombardia e Sony, nonché con il patrocinio del Comune di Milano. Siamo andati all'edizione di venerdì 17 ottobre a Palazzo Lombardia, dove si sono trovati 300 giovani imprenditori, di cui per la prima volta nella storia del progetto 50 spagnoli. Si sono incontrati tra di loro e con esperti di business sui temi come stampa 3D, crowdfunding, energie rinnovabili e riciclo. Il progetto è proseguito in serata con un originale contest di idee in volo, una selezione di imprenditori su un volo Milano-Barcellona per dare vita a nuove idee di business, come spiega trolley alla mano Emiliano Novelli, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda. Partiamo da Milano, andiamo a Barcellona in aereo con un aereo messo totalmente a disposizione. A bordo di questo aereo sviluppiamo un'idea di contest originale che possa essere fonte di una nuova startup e poi ci troviamo a Barcellona per capire e per scegliere la migliore idea. Un contest nuovo, un contest per far volare le idee e visto che Social to Business è uno dei progetti per far volare Milano, abbiamo messo Milano in volo. I progetti migliori sono stati premiati il giorno seguente, sabato 18 ottobre, da una giuria di esperti del settore. Sono stati i migliori nelle quattro categorie: startup, travel business, turismo, tecnologia, e ciascun team era composto da 5-6 imprenditori italiani e spagnoli. Il messaggio di Social to Business è quindi network, network, network, ma anche volano per le richieste di giovani imprenditori, secondo Marco Gai, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. C'è volontà di mettersi in rete, volontà di collaborare e volontà di contaminarsi. E questo si vede qui a Milano. Oggi il valore della territoriale che scambia col nazionale e scambia con le altre territoriali fa sì che il network, la rete dei giovani imprenditori abbia quel valore di avanguardia e di sistema che noi vogliamo che abbia. Che cosa chiedete alle istituzioni, l'Italia, l'Europa? Deve finire il periodo dell'austerità, questo è il primo punto ed è molto serio perché gli imprenditori e le imprese hanno voglia di crescere, stiamo investendo, molti stanno resistendo sul mercato e molti vorrebbero crescere. La stessa facilità di fare impresa che c'è in nostri colleghi europei ci sia anche qui da noi. Sicuramente la legge di stabilità ha dato diversi segnali in questa direzione. Finalmente l'abbattimento dell'IRAP, i giovani imprenditori di Confindustria, e Confindustria chiede ormai da decenni, oserei dire. E poi il fatto che si vada verso un mercato del lavoro che non sia privo di regole, privo di tutele, ma che sia flessibile e favorisca l'inserimento dei giovani in azienda con la decontribuzione dei primi 3 anni, speriamo si concretizzi in fretta perché potrebbe essere uno stimolo in più e affiancato alle politiche industriali un vero volano per farci ripartire. E ora sentiamo 4 storie italiane e spagnole che si sono incrociate a Milano grazie a Social to Business. Marzia Maiorano di Mida, informatica, trasporto, logistica e tech, ci parla dalla sua postazione online sempre attiva. Io sono un'imprenditrice di seconda generazione e quindi l'idea è stata quella del mio papà, è unire 3 servizi nell'informatica, trasporto, logistica e assistenza tecnica sul territorio. Io adesso mi occupo di potenziare tutti i servizi rimanendo al passo coi tempi. Quali sono state le applicazioni che hai utilizzato e che utilizzi oggi per il Social to Business? Perché ti trovi qui? Mi trovo qui soprattutto per fare network. Noi piccole PMI siamo delle realtà territoriali. Facendo network possiamo anche estendere i confini oltre Milano, oltre la Lombardia. Quindi questo mi permette di avere relazioni in altre regioni e a volte anche all'estero. Che cosa vi ha aiutato anche in passato per sviluppare le vostre idee? Il Social to Business mi ha aiutato perché tipicamente mette al centro le idee o i progetti, quindi aggrega le persone per centri di interesse, dà la possibilità alle persone diverse di incontrarsi e non essere tutti dello stesso settore. Questa diversità crea ricchezza, crea network e relazione. Qual è il tuo modello di business? Il nostro modello di business è tipicamente costruire un progetto su misura per il cliente. Tipicamente i miei clienti sono delle multinazionali che hanno 3 esigenze differenti, ma allo stesso tempo che devono soddisfare un'esigenza, quella dell'informatica, che parte proprio dal trasporto alla realizzazione e alla personalizzazione dei dispositivi e alla loro delivery sul territorio. E Mida si occupa appunto di tutte queste tre fasi. Materialmente che cosa fai qui oggi? Oggi qui cerco anche nuove idee da poter integrare con il mio business. Il contatto con Barcellona potrebbe aprire nuovi scenari, perché no? Ferran Buriel, il socio fondatore di Lansam, è arrivato da Barcellona per creare connessioni e idee con il suo fondo di investimento, un diverso tipo di capitale di ventura, dove i sottoscrittori non versano subito i soldi, delegando in bianco il manager a investirli per ottenere il massimo rendimento, ma piuttosto promettono di finanziare solo gli affari che di volta in volta giudicano interessanti. Nosotros somos un pequeño fondo de inversión, se conoce como Pledge Fund. Noi siamo un piccolo fondo di investimento, noto come Pledge Fund, conosciuti come fondi promessa negli Stati Uniti, che mettono in contatto grandi investitori con le start-up. Finora gli investitori dovevano avere un grande capitale, e quello che permette Lansame è che questo capitale sia di minore entità e che quindi anche i piccoli investitori e risparmiatori possano appoggiare nuove idee. Lansame è nato quando io stesso mi sono trovato a creare due imprese e ad avere la necessità di finanziamenti e di investire in startup. Quale aiuto avete ricevuto voi per far crescere Lansame? È successo a me come ad altri imprenditori, che non abbiamo aiuti né dagli amici, né dalla famiglia, né da sostenitori entusiasti. Ho dovuto attingere i miei risparmi. In questa occasione per Lansame mi sono legato a due soci e abbiamo utilizzato i nostri risparmi per investire in imprese. A questo serve la società. Qual è il modello di business? Da che cosa guadagnate? Lo che buscamo sono startups che siano facilmente scalabili. Cerchiamo startup che siano facilmente scalabili, cioè che si trasformino in scale-up, che abbiano possibilità di successo. E se succede, ci versano una percentuale degli utili. E questo è il nostro modello di business. Come cercate gli investitori e soprattutto quanto investono? Los inversores en un principio los buscamos en nuestro entorno. Gli investitori all'inizio li abbiamo trovati tra le persone a noi vicine. Uno dei soci lavorava alla Borsa di Barcellona e aveva già le competenze per contattare investitori. Però in seguito, poiché il modello è molto semplice, perché gli investimenti sono a partire da 2.000 euro, il metodo è stato quello del tam-tam tra investitori. E nonostante siano solo due anni che siamo sul mercato, abbiamo riscontri. Per il fenomeno delle startup sempre più famoso, perché è un modello unico in Spagna e poiché si tratta di piccoli investitori che hanno un buon ritorno, più alto rispetto a tenere i soldi in un deposito bancario. Le startup da parte loro chiedono un ticket minimo di 25.000 euro. Quello che facciamo è raggruppare gli investitori da quelli che versano una quota di 2.000 euro a quelli che versano l'intero ticket. L'investimento medio che realizziamo in startup è di 180-200.000 euro. Già di stampo internazionale per natura e settore, anche Carlo Frigerio di Frigerio Viaggi trova nel social to business una leva in più, soprattutto in vista di Expo. Il nostro gruppo si sta trasformando da una pura e semplice agenzia di viaggio ad un'agenzia per servizi, quindi i nostri principali clienti stanno diventando multinazionali, istituti di credito. Come mai siete qui? Beh, innanzitutto creare comunque nuove sinergie, cercare nuove partnership, opinioni da parte dei nostri colleghi spagnoli. Comunque alle porte di Expo, siamo qui anche per cercare nuove sinergie e creare incoming verso Milano. Tra piccole e medie imprese e startup ci può essere un link che può essere quello dell'innovazione. Anche voi cercate idee che potete o mettere in pratica insieme alle startup oppure mettersi in proprio e cercare di realizzarle in proprio. Per esempio abbiamo creato un sistema di nota spesa per i travel manager, una volta di ritorno dalle loro trasferte si possono vedere addebitate automaticamente il costo delle loro trasferte. Senza troppo cartaceo, e queste sono le innovazioni che servono ovviamente anche a far volare anche in tempo di crisi il proprio business. E quale modello di business avete? Puntiamo principalmente alle multinazionali, ma comunque anche alle piccole, medie e grandi imprese. Ma c'è anche chi parla italiano tra gli imprenditori spagnoli, segno che le connessioni sono già attive. Jordi Bozza di It Glass guarda già al futuro. Facciamo di sviluppo di apps per Google Glass. C'è un progetto nuovo, una giovane startup da meno di un anno di vita, ma il nostro business model c'è di lavorarle per le grandi ditte europee da diversi mercati verticali. ci abbiamo fatto di sviluppo per la banca, anche per la terza grande ditta europea di farmaceutica, Sanofi. Abbiamo fatto anche un progetto per la Germania, per Lufthansa. Il nostro ultimo progetto è di una grande ditta spagnola di infrastruttura che si chiama Ferrovial. Questo è dove siete arrivati, ma chi vi ha aiutato per crescere? Che cosa vi ha aiutato? Io penso che mi ha aiutato la necessità, perché avanti di questo lavoro io sono stato direttore generale di una grande società in la borsa spagnola del settore immobiliare, e con la crisi immobiliare sono obbligato a reinventarmi. Sono andati a America, a Harvard, a studiare e ho cominciato questo progetto mentalmente. Ho visto un video su YouTube di Sergey Brin, il fondatore di Google, con questo Google Glass. Ho pensato che c'è una buonissima opportunità di iniziare questo startup. E come mai sei qui? Qui perché dopo questo anno di lavoro noi abbiamo agenti in Silicon Valley, Inghilterra, Germania, Cile. Siamo giusto a segnare il contratto per la Francia e pensiamo che qui sia una buonissima opportunità di trovare quello che cerchiamo, una giovane ditta che voglio essere il nostro agente per lo sviluppo di Google Glass in Italia. Wearing technology, cioè la tecnologia che viene vestita dalle persone, è questo che volete fare? In questo momento, se qualcuna persona ti domanda se tu porterai qualcun giorno una Google Glass, dirà un po' loco, un po' locura, ma io penso che si può fare esattamente la stessa cosa che ti fa con un mobile, ma con la libertà delle due mani totalmente libere e comandare il dispositivo con la voce. Io comprendo che in questo momento c'è una cosa un po' speciale, ma probabilmente dentro di 2 o 3 anni sarà assolutamente normale. E ora fate volare le vostre idee. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre, Voci di Piccola Impresa su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino.